Letture di Radio 24. Sempre più dura la vita degli obesi negli Stati Uniti, ma ora in difesa di tutti quelli che sono vittime di pregiudizi per le loro condizioni fisiche, scende in campo una paladina dei diritti civili. Per Deborah Rhode, docente di diritto all'Università di Stanford, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una ricerca dell'Università di Cornell. La ricerca ha accertato che nei tribunali americani i brutti, i bassi e gli obesi subiscono condanne più dure e ricevono sentenze più lunghe del 22% in media che non i belli, gli alti e gli snelli. Deborah Rhode è una crociata dei diritti civili, possedeva numerosi altri dati sulla discriminazione ai danni dei non avvenenti. In America vengono pagati oltre il 10% in meno, licenziati per primi nei periodi di crisi, eccetera. E si è indignata. Ha pubblicato The Beauty Bias, un libro di denuncia che ha rivitalizzato un movimento sorto negli anni 90 ma poi sconfitto. Il movimento per l'eguaglianza dell'aspetto fisico, oltre che del sesso, della razza, della religione e dell'età. Occorrono leggi che assicurino a chi non è attraente lo stesso trattamento di chi lo è, ha protestato Deborah Rhode. Privilegiare la bellezza è sempre ingiusto e spesso controproducente. La sfida della prof sta spaccando in due l'America, dove gli obesi sono quasi il 30%. La maggioranza dei giovani dichiara di preferire una compagna drogata o ladra a una brutta o bassa. E l'11% delle coppie si dice addirittura pronta ad abortire se il figlio non fosse gradevole. Un'altra giurista, Judith Langlois, dell'Università del Texas, ha ribattuto che la bellezza viene apprezzata persino dagli infanti di 3-6 mesi e che è quindi innata negli esseri umani e in certi mestieri o professioni è indispensabile. Inoltre, ha aggiunto, quasi tutte le donne vogliono essere e rimanere belle. Le 16 senatrici a Washington vanno dai 46 ai 74 anni, ma non una di loro ha i capelli grigi. E anche le femministe ricorrono al botox e alla chirurgia plastica. E gli uomini? Basta guardare le statistiche, risponde Judith Langlois. Hanno più successo nella politica e nel mondo degli affari gli uomini alti e almeno in apparenza virili. Sulla scia di The Beauty Bias si rafforza tuttavia il movimento per l'eguaglianza dell'aspetto fisico. A Boston il senatore Byron Rushing ha chiesto di rendere illegale la discriminazione contro i bassi e i grassi nello stato del Massachusetts. Una legge al riguardo esiste già nello stato del Michigan. L'anno scorso, riferisce Deborah Rhode, furono querelate una trentina di aziende. 6 o 7 comuni, tra cui quelli di Washington e di San Francisco, hanno emanato ordinanze in difesa dei non avvenenti. Tra di essi, il pioniere è quello di Santa Cruz, in California, la cui cosiddetta ordinanza dei brutti risale al 1992. Solitamente si tratta di amministrazioni democratiche, precisa la prof, ma anche quelle repubblicane stanno affrontando il problema, che è un problema politico, di costume, sociale ed economico. Il movimento osserva che questo tipo di disuguaglianza colpisce ogni ceto e ogni attività. Alle elezioni del 2008, molti media derisero la ex First Lady Hillary Clinton, la prima donna in grado di essere eletta presidente, per la sua mancanza di sex appeal, ed esaltarono invece il look della ex reginetta di bellezza, Sarah Palin, la controversa candidata repubblicana alla vicepresidenza. Ma Deborah Rhode insiste che le persone comuni sono le principali vittime del malcostume, cameriere e commesse che perdono il posto perché sovrappeso, impiegati privati della possibilità di fare carriera e via di seguito. Per non parlare, conclude, delle umiliazioni quotidiane che vengono loro inflitte, commenti e scherni, nei locali e sui trasporti pubblici. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ennio Caretto, Brutti e Obesi, dal Magazine 7 del 16 settembre. Letture di Radio 24. È scomparso domenica scorsa all'età di 66 anni il giornalista Pietro Calabrese. E con lui se n'è andato anche Gino, l'alter ego che l'ex direttore del Messaggero e della Gazzetta dello Sport si era creato per raccontare nella sua rubrica settimanale sul Magazine 7 la malattia che da tempo lo stava consumando. Un libro di prossima pubblicazione, del quale il Corriere della Sera ha anticipato alcuni passaggi, raccoglie i suoi dialoghi con quest'ospite sgradito e invadente. E all'improvviso arriva Gino. Irrompe senza ritegno né rispetto in questa storia, come il riccio a cui offri temporanea ospitalità e subito si allarga e si ricava uno spazio sempre più grande. Sgombra l'ospite per diventare lui il protagonista e il padrone di casa. Io lo guardo, ammutolisco, mi arrabbio, lo giudico un individuo senza ritegno, ma a poco comincio a volergli bene, perché il suo spazio dimostra di meritarlo. Ed è così che avviene la trasformazione. Il cambio è plateale per tutti. All'esterno io divento Gino e lui diventa me. Io mi annullo e lui giganteggia. Ma mi protegge, para i colpi, fa la figura dell'eroe e soffre al mio posto. Un legame sempre più particolare, ormai indissolubile. Però, e questo gli va riconosciuto, non è mai stato un legame malato. Gino, che ha preso il mio posto nell'immaginario collettivo, è l'individuo più sano di tutta questa storia. Eppure, se torno indietro a quei giorni di fine maggio, ancora non so spiegare come è nato Gino. Da qualche idea, da qualche scintilla del cervello, da qualche crepa dell'anima, da qualche fessura del cuore. So che i tempi sono stati molto stretti. Da più di 2 anni tengo una rubrica per il settimanale del Corriere della Sera, che allora si chiamava Magazine e oggi è diventato 7. Esce il giovedì in allegato al grande giornale e lì, nelle prime pagine, c'è la mia rubrica Moleskine, che prende il nome dal mitico taccuino nero per gli appunti di epici personaggi come Ernest Hemingway e Bruce Chatwin. La prima puntata su Gino appare il 28 maggio 2009, vale a dire 9 giorni dopo la scoperta del tumore. Ma poiché per motivi di stampa devo consegnarla con 7 giorni di anticipo, significa che la penso e la scrivo entro la giornata del 20, cioè nelle 24 ore tra la scoperta del tumore e la biopsia polmonare. Mi hanno detto: lei ha un brutto cancro che può farla fuori in 2 anni, e io scrivo la rubrica quasi in contemporanea. Giornalismo in diretta va bene, ma terribile se ci pensate, atroce se ci rifletto. Ed è proprio per questa simultaneità d'avvenimenti che i conti non tornano e mi rifugio nell'imponderabile. Come sempre, quando qualcosa che non controllo mi fa paura. La verità è che io non so esattamente quando ho scritto questo pezzo che il direttore Giuseppe Di Piazza, con felice intuizione, ha chiamato «Le cose vere della vita». Mercoledì 20 maggio, con la testa infilata fino al collo nel mio nuovo status di malato grave di cancro, a un certo punto mi sono messo al computer e ho scritto la storia del mio amico Gino, al quale era caduta questa tegola pesantissima sulla testa. Dovevo tirar fuori questa spinta urticante che avevo dentro e l'ho fatto senza pudore né ritegno. Detto questo, quella di Gino è stata una felice intuizione giornalistica di cui vado fiero. Ne ho avute altre, assai più futili, durante i lunghi anni delle mie direzioni. Sono invenzioni, avvenimenti apparentemente scollegati che trovano il loro punto d'incontro e di successo se si è abbastanza bravi e fortunati da intercettare altri avvenimenti di cui si parla o che interessano i lettori. Sul tema del cancro doveva essere chiaro anche a un rimbambito come me, che avrei toccato una corda che coinvolgeva milioni di persone. Ma non avevo idea fino a che punto. L'altro giorno un mio caro amico è andato dal medico per fare un controllo di routine. È un tipo sano, che fa sport, che non fuma, cammina almeno 1 ora al giorno, 2 volte alla settimana si fa le sue 18 buche di golf e poi per 3 giorni alla settimana nuota come un pesce, 80 vasche nella piscina olimpica a stile libero senza interruzioni. Così scrivevo. E continuavo. Il medico gli ha fatto la lastra al torace e all'improvviso è cambiato. «C'è un addensamento nel polmone destro», ha detto il radiologo. La sera dopo sono andato a cena con lui. Mi aveva chiesto di non portare le mogli. A un certo punto si è messo a piangere, poi si è ripreso. Non riusciva a darsi pace di essere precipitato in un tunnel dell'orrore senza alcuna colpa, solo perché la pallina della roulette del destino era andata a incasellarsi in quel numero maledetto. Tutto è saltato in aria. Sogni, progetti, lavoro, futuro. Galleggio da questi due giorni in questa melma appiccicosa che mi è cresciuta attorno in una manciata di secondi. Il tempo che il medico guardasse la lastra e pronunciasse quelle due parole: addensamento polmonare. Due parole apparentemente senza senso che mi hanno cambiato la vita per sempre. Questo in parte il testo dell'articolo. Giovedì 28 maggio il magazine è in edicola, come sempre, tra le 6 e le 7 del mattino. E non mi immagino proprio che facendo la prima colazione i lettori saltino il Corriere e vadano a leggersi con voracità le rubriche del supplemento. Accendo il computer intorno alle 9.30 e leggo la mia posta personale. Alle 10 ci sono già una ventina di mail di commento alla mia rubrica, che diventano un centinaio alle 13 e più di 400 a fine giornata. Uno sbalorditivo tsunami. C'erano mail di ogni tipo, ma cantavano tutte la medesima canzone. Dica al suo amico che il cancro si può vincere, basta solo non mollare. C'erano ricordi personali, racconti tristi di persone care che non ce l'avevano fatta dopo aver lottato umilianti battaglie. C'erano padri e mariti e coniugi e figli e bambini piccoli che erano morti di tumore e di leucemia, ma avevano lottato fino all'ultimo con indomabile tenacia. E c'erano decine e decine di storie finite bene, con vecchi nonni ultraottantenni che ancora si godevano la vita, genitori che erano usciti dal tunnel e conducevano da anni un'esistenza serena e a tratti felice. C'era soprattutto, ed è stato questo a sconvolgermi, un'Italia sconosciuta che rifiutava i luoghi comuni della politica e i suoi stitici ghirigori di chiacchiere, che chiedeva di parlare e di confrontarsi sui problemi reali, dopo tante stagioni di giornalismo e di direzioni, con la sicurezza e la prosopopea che inevitabilmente cattura tutti coloro che per anni detengono il potere, o quello che loro stessi presumono tale, con la stupida arroganza di chi si sente più ganzo degli altri. Non avevo capito nulla, o quasi, e se ancora qualche dubbio mi restava, i giorni seguenti me li avrebbero tolti tutti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pietro Calabrese, Io e Gino, così ho conosciuto l'Italia dell'amore, dal Corriere della Sera del 13 settembre.